America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, intanto vorrei partire con una notizia che mi ha colpito moltissimo, poi la approfondirò nei prossimi giorni, anzi cercherò di fare una chiacchierata anche col protagonista di questa notizia, che è Paolo Fresco. Paolo Fresco, ex presidente e amministratore delegato della Fiat, ex numero 2 alla General Electric per molti anni. Ebbene, ieri ha annunciato di aver fatto una donazione di 25 milioni di dollari al New York University, una donazione molto interessante perché prevede che una buona parte di questa donazione, i 2/3, abbia un riflesso sull'Italia, cioè finanzi degli istituti che facciano ricerca contro il morbo di Parkinson e altri problemi delle attività motorie. Ecco perché questa notizia è importante. Beh, perché secondo me apre una nuova strada in quella che potrebbe essere la filantropia in Italia. Ne parleremo più approfonditamente in un'altra occasione, perché abbiamo oggi molte notizie piuttosto interessanti del giorno. Ve ne accenno un'altra che ha a che fare con la TPP, la Trans-Pacific Partnership, l'accordo commerciale di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. È intervenuta Hillary Clinton, che ha fatto un'intervista alla PBS. Sentiamo. What I know about it as of today, I am not in favor of what I have learned about it. Hillary Clinton, stranamente, almeno secondo me, ha dichiarato di non condividere l'ottimismo sull'accordo siglato da Barack Obama per liberalizzare il commercio nel bacino del Pacifico. Ecco, una dichiarazione a sorpresa. Il marito era stato favorevole all'accordo per il NAFTA, ma Hillary in questa intervista dice che lei, come dire, in generale è in favore della liberazione commerciale, eccetera eccetera, però ha detto fin dall'inizio, avevo detto che dovevamo avere un accordo commerciale che avrebbe creato buoni posti di lavoro per gli americani, che avrebbe aumentato i salari, che avrebbe fatto progredire la nostra sicurezza nazionale, e credo che questo doveva essere lo standard a tenere presente, uno standard che non abbiamo in questo accordo, e per questo sono preoccupata. Ecco, la sua è un'uscita chiaramente elettorale, Hillary Clinton forse è in difficoltà. Ma la notizia che domina negli Stati Uniti, che ha dominato nella serata di ieri e domina nella mattinata di oggi, resta lo straordinario attivismo della Russia in Siria. La Russia ha usato, l'avrete visto dalle cronache, delle navi da guerra tra l'altro nel Mar Caspio, quindi lontane a 1000-1500 chilometri dalla Siria, per lanciare dei missili contro il, tra virgolette, nemico di Assad. Ecco, si tratta di una escalation. E lo ripeto, l'avevo accennato prima, ma la cosa che dobbiamo tener presente è che la Russia non aveva mai compiuto delle azioni militari in Medio Oriente. Non era mai intervenuta direttamente, e qui ci troviamo in un contesto geopolitico che riguarderà la prossima amministrazione, con l'accordo con l'Iran e con una forte presenza militare della Russia in Medio Oriente, che cambierà completamente il quadro geopolitico e lo scacchiere mondiale. Di nuovo l'amministrazione è in difficoltà. Che cosa ha fatto la Russia? Beh, da 4 navi da guerra sono partiti 26 missili, in teoria contro l'ISIS. Ma il Dipartimento di Stato ci ha detto che in realtà gli attacchi sono andati soprattutto contro i gruppi militari organizzati vicini all'opposizione. Sentiamo John Kirby, il portavoce del Dipartimento di Stato. In terms of what they're doing and why they're doing it, I'll let their comments speak for themselves on that. We've seen multiple now public comments, including by the president. Ecco, dice Kirby, oltre il 90% dei loro attacchi, che abbiamo seguito in dettaglio, non sono stati contro l'ISIS o contro i terroristi vicini al-Qaeda, sono stati in gran parte contro i gruppi di opposizione. Questo è un messaggio molto chiaro. Evidentemente, se questo è confermato dai fatti, beh, significa che la Russia in questo momento vuole soltanto rafforzare Assad. Assad diventa lo strumento con cui si potrà attaccare l'ISIS e debellarlo. Assad non può, come dire, distogliere la sua attenzione in altri fronti, su altri fronti costituiti da ribelli, tra virgolette, contro il suo regime, tra l'altro appoggiati dagli americani, e dunque la Casa Bianca deve far buon viso a cattivo gioco. L'America non accetta l'invito di sedersi a un tavolo con Mosca per discutere una strategia complessiva per la Siria, e con i russi per il momento si cerca soltanto il coordinamento dei raid aerei che servono per evitare degli incidenti, perché lì volano un po' tutti, ci manca soltanto che ci siano degli incidenti aerei. Devo dire che questa escalation mi ha colpito, pensate, un attacco che parte da 1500 chilometri, lo stesso Vladimir Putin lo ha annunciato e fonti del Pentagono, un generale del Pentagono, ha detto che si è trattata di un'operazione militare brillante dal punto di vista tecnico, dal punto di vista militare, è stata condotta con grande accuratezza. Ecco, Putin ha anche precisato che è troppo presto a questo punto per arrivare già delle conclusioni sui risultati delle operazioni militari russe, e ha ordinato di continuare nelle missioni e di cooperare appunto con gli Stati Uniti, con la Turchia, con l'Arabia Saudita, con l'Iran, con l'Iraq, però sappiamo che il quadro è molto molto complesso. La Turchia è irritatissima per questa azione russa in Siria. L'Arabia Saudita, peggio che andare di notte, perché non sopporta il regime di Assad, dunque di nuovo Putin usa una dialettica che è più tagliata per il suo messaggio che per quella che è la situazione reale sul campo. Come vi dicevo, però, di certo qui siamo a una svolta storica per il Medio Oriente, una ritirata degli Stati Uniti, un'avanzata della Russia, o comunque, nella migliore delle ipotesi, gli Stati Uniti che a questo punto devono confrontarsi con una Russia che, dopo aver impegnato direttamente le sue truppe, certamente non farà dei passi indietro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Non posso che proporvi, in questo contesto geopolitico così complesso, dei Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Tutti vogliono comandare in questo mondo. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.